La nostra amica Paola, che fa da giornalista, ha la bontà di definirsi una fan della caccia e ci assicura di seguirci fedelmente anche se si è trasferita in Brianza dalle parti di Arcore. Lei dice che lo ha fatto perché è nata una bellissima bambina, che è una cosa che ci fa tanto piacere, ma abbiamo il vago sospetto che sia stata spinta anche dal desiderio di evitare quanto più possibile il nuovo direttore del suo giornale. La nostra amica Paola dunque ci ha mandato un prezioso reperto, un ritaglio del giornale di Merate del 2 febbraio ultimo scorso, contenente un'inserzione pubblicitaria da cui strane cose si possono evincere sui costumi della dolce Brianza. Capirete, un'inserzione che comincia perentoriamente assicurandoci che la tapparella della tua camera si alza da sola alle ore 7:00, che ammetterete come inizio piuttosto inquietante, suscitando l'immagine di un povero Cristo che se la dorme beato e viene spietatamente inondato dalla luce della prima aurora, anche se magari a quell'ora non ha niente da fare e potrebbe continuare a dormire fino a mezzogiorno. E poi aggiunge subito dopo, inserzione, la tapparella della camera di tuo figlio si alza da solo alle ore 7:30 e il lettore non fa nemmeno in tempo a riflettere che sì, i ragazzi sono sempre ragazzi e possono ben dormire mezz'ora in più, che apprende inesorabilmente quella del bagno si alza alle 8:00, quella del salotto alle 9:00, quella della cucina alle 6:00, chissà perché alle 6:00, un'ora prima che si è alzata quella della camera tua, ma non importa. E poi, insiste, si rinchiudono alle ore 18:00, 18:30, alle 19:00, alle 20:00. Insomma, si aprono e si chiudono automaticamente proprio quando vuoi tu. Installazione in giornata, per informazioni preventive gratuite rivolgetevi al numero 0337, eccetera, eccetera. Agghiacciante. Qualcuno, nella dolce Brianza o altrove, dal prefisso non si può capire dove, perché lo 0337 è l'indicativo del telefono cellulare, dei telefonini portatili per intendersi. Qualcuno evidentemente ha avuto l'idea di collegare ad un alza tapparello elettrico, un meccanismo di cui saremo gli ultimi a negare l'utilità, soprattutto perché la necessità di difendersi da radio malintenzionati vari fa sì che oramai le tapparelle siano degli oggetti metallici blindati che solo un sollevatore di pesi ex sovietico potrebbe azzardarsi a cercare di alzare a mano, un dispositivo a orologeria che provoca l'apertura delle finestre a un'ora prefissata. E lo vende, o almeno ci prova. Il meccanismo in sé deve essere piuttosto semplice e dubitiamo che la sua invenzione possa valere all'ingegnoso Brianzolo il premio Nobel per la meccanica, ma il vero problema per noi, e crediamo per la nostra ascoltatrice, è evidentemente quello di perché qualcuno debba munirsene. In fondo, la combinazione di una normalissima sveglia e di un normalissimo alzatapparello elettrico pulsante dovrebbe permettere un'assai più agevole programmazione del proprio risveglio, senza gli inconvenienti che si possono facilmente immaginare in caso di blackout o di fusibile saltato alla vigilia di un weekend lungo con ponte. Il piacere di essere svegliato dalla luce del giorno, piuttosto che dallo squillo della sveglia, o in caso di radio sveglia dalle notizie in breve di Radio Popolare, ci pare piuttosto dubbio. E l'idea che la trovata prenda piede, determinando una situazione in cui casa per casa, città per città, collina per collina, da Monza a Calco, da Montevecchia a Cernusco e poi via via allargandosi in Italia, in Europa, nel mondo, la vita dei soggetti sia determinata dal ritmico alzarsi ed abbassarsi delle tapparelle, alle 8 quella del bagno, alle 9 quella del salotto e così via, è abbastanza da brivido. A quanto mi sembra di ricordare, a tanto non era arrivato neanche il Lang di Metropolis o il Chaplin dei tempi moderni. Qualcuno, soprattutto in Brianza, terra notoriamente di sobri costumi e di elevata diffidenza a qualsiasi cosa sappia di improvvisato e confuso, potrà amare l'ordine al punto di poter programmare anche questo aspetto della sua vita, ma speriamo che non ce ne siano abbastanza da far prosperare il giro d'affari dell'anonimo inserzionista del giornale di Merate. A occhio e croce, il destino più probabile di colui dovrebbe essere quello di morire di fame. O forse, naturalmente, no. Forse l'anonimo inserzionista è un genio che ha riflettuto su come l'innovazione tecnologica, qualsiasi innovazione tecnologica, eserciti sul consumatore una specie di fascino irresistibile. Uno che ha notato come non ci sia detentore di computer con un disco fisso di 20 MB e un processore 286 che non arda dal desiderio di un 386 ultraspinto con 80 MB di spazio, anche se per le sue necessità il modello precedente basta e avanza. È successo anche a me che vi parlo, figuratevi, e vi confesso che da un paio di mesi sto pensando con cupidigia al monitor a colori, anche se l'unico uso che riesco a immaginarne è quello di giocarci a Tetris. Uno che ha riflettuto sui motivi per cui si cambia l'impianto hi-fi e il videoregistratore, che ha riflettuto sulla diffusione dei telefonini, ne possiede uno anche lui, in regioni caratterizzate da alta densità di telefoni pubblici, sulla quantità di bancomat di altre diavolerie interattive diffuse dappertutto, e che ha deciso che, visto che il giochetto è riuscito con l'elettronica, non si vede perché non debba riuscire con i suoi più semplici dispositivi elettromeccanici, che poi, volendo, qualche chip nascosto qua là possono benissimo averlo, per cui si rientra nel trend generale con suo innegabile beneficio personale e senza la necessità di trasferirsi a scopo di studio a Silicon Valley. In questo caso, onore al merito, possa ridere a questo ignoto psicologo tutta la fortuna che gli spetta. A lui va il deferente rispetto della redazione tutta della Caccia. E a Paola e Marta, naturalmente, tutti i nostri auguri e l'invito a tornare al più presto nella metropoli. È un posto più sicuro. I found my thrill. Oh,